364. Riffreddo di vitella di latte. Una braciuola senza osso, tutta magra, di vitella di latte, del peso di circa grammi 400, altro magro della stessa carne, grammi 120, una grossa fetta di prosciutto grasso e magro, di grammi 50, altro prosciutto come sopra, grammi 20, una fetta di mortadella di grammi 50, parmigiano grattato grammi 30, burro grammi 20, un petto di pollo crudo, un uovo. La braciuola bagnatela con l'acqua e battetela col batticarne per ridurla alla grossezza di un centimetro circa. Tritate con la lunetta i suddetti grammi 120 di magro, insieme coi suddetti grammi 20 di prosciutto, e dopo pestateli nel mortaio, aggiungendo il parmigiano, il burro, l'uovo, poco sale e poco pepe, per fare con questi ingredienti il composto da tenere unito il ripieno che formerete come appresso. Tagliate a filetti grossi più di un centimetro il petto di pollo e le due fette di mortadella e prosciutto, e poi col composto spalmate una parte della braciuola e sopra il medesimo collocate una terza parte dei filetti. Intercalandoli, poi spalmateli di sopra e così per altre due volte. Fatto questo, arrocchiate la braciuola con entro il ripieno ed ammagliatela ad uso salame per metterla al fuoco con grammi 30 di burro, sale e pepe a scarsa misura. Quando avrà preso colore, scolate l'unto, il quale potrà servire per qualche altro piatto, e tirate la cottura per circa 3 ore col brodo versato a poco per volta. Ghiaccia che sia, scioglietela dallo spago, tagliatela a fette e servitela. Potrà bastare per 10 o 12 persone, specialmente se la guarnite di gelatina di carne che qui ci sta a pennello.